Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. E quando ho avuto la bambina mia bambina, che è stato un momento che mi ha cambiato un po', responsabilizzato, diciamo, ma in modo veramente tanto. E si cambia, si vedono tante cose nuove quando hai un bambino da tirare su. Si vedono anche gli sbagli che fai. Ci sono notizie che sembrano fatte apposta per rinfocolare polemiche o per dare spazio a discussioni di tipo generale, quando in realtà toccano molto nel particolare temi che sono cari a questa trasmissione. Una di queste è l'idea di sostituire i termini padre e madre con genitore 1 e genitore 2. Non ben chiaro chi sia l'uno o chi sia il due, probabilmente tireranno a sorte in nome delle totali pari opportunità. È qualcosa che già esiste nelle normative di paesi come la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, ma una delegata del Comune di Venezia ha pensato di essere la prima a dire anche in Italia ci vorrebbe qualcosa del genere. Il ministro Chienge ha detto sì, sarebbe bello. Questo poi fa parte di uno strascico che non ci interessa. Ma io, che non sono mai stato passatista, mi piace centellinare, bere e assorbirmi di contemporaneità per vedere, osservare senza mai prendere in mano il vessillo del una volta era meglio. Però su questa cosa io mi voglio oggi interrogare assieme a voi. Benissimo, saremo genitore 1 e genitore 2. Ma per quello che mi riguarda, non voglio dare lezioni a casa altrui, non voglio entrare nelle definizioni che appartengono a generi che conosco soltanto per esperienza indiretta, per osservazione. Ma noi maschi, noi uomini, noi padri, padri non per scelta, padri non per vocazione, ma padri a tutti gli effetti, che necessariamente a un certo punto ci siamo trovati la responsabilità di figli, di avere dei figli che ci guardano e ci dicono papà, babbo, padre, chiamatelo come volete. Beh, come dobbiamo dare forza, esistenza a questa nostra condizione che, ripeto, volenti, nolenti, per vocazione, per spirito, per spinta genetica, comunque ci troviamo a dover avere sulle spalle? Oggi mi rivolgo a tutti i padri. Padri presunti, padri certi, padri genetici, padri acquisiti, padri adottivi, tutti quelli che si svegliano la mattina e si rendono conto che hanno dei figli che li guarderanno, faranno loro delle domande e loro devono rispondere. Questa trasmissione la voglio fare su due binari. È una trasmissione piuttosto particolare. Io, come ho già detto ieri, oggi sono qui in maniera fugace e veloce perché, fatta la diretta, ci tenevo a fare la diretta, riprenderò la macchina e mi avvierò verso l'Umbria. A un'ora e mezzo di distanza ci sono alcuni padri che hanno dato un senso ancora più forte alla loro scelta di essere padri. Sono alcuni padri che hanno dei ragazzi autistici, come ho anche io. È una vicenda di cui parlo spesso, parlo volentieri, parlo con orgoglio, parlo senza reticenze, che hanno deciso, per il loro particolarissimo problema, molto poco conosciuto e molto poco istituzionalmente seguito, di dire noi facciamo qualcosa che altri padri non farebbero mai, o farebbero raramente, o farebbero controvoglia. In una fase dell'anno in cui si rientra al lavoro, siamo al massimo della necessità e della tensione di dover essere non soltanto padri, ma uomini comunque inseriti in una società, in un mondo lavorativo, delle difficoltà quotidiane, lasciamo tutto, molliamo tutto, prendiamo la cavezza del cavallo e portiamo il nostro figlio a cavallo. Sono partiti domenica passata, oggi compiranno il loro percorso che si è snodato attraverso il Lazio settentrionale, l'Umbria meridionale, avranno cavalcato i loro ragazzi per un centinaio di chilometri, oggi arriveranno alla tenuta dei Ciclamini, che è il luogo dove è l'Accademia della Musica del maestro Mogol. Perché? Perché nel 1970 Mogol assieme a Lucio Battisti presero il cavallo, partirono da Milano e andarono a Roma. Fu un'operazione divertente, seguita da TV Sorrisi e Canzoni, aveva un senso allora. Oggi che senso ha la cavalcata dei padri? Beh, ce lo racconteranno i padri stessi, alcuni dei padri che hanno portato i loro figli a cavallo, tra i quali mi unirò anch'io fra un'ora e mezzo circa, e vi prego di dare il vostro contributo all'idea, se ancora esiste, che abbia un senso essere padre. Allora tu sei Telemaco, figlio di Ulisse. Mia madre mi chiama così. È un nome che non ho mai sentito dalle labbra di Ulisse. Ho sentito dire che tuo padre è tornato. No, t'hanno detto il falso. Non è tornato ancora. Chi sono costoro? Lasciano le armi fuori del palazzo, ma si comportano da padroni. Vedo anche che ti ignorano. Forse perché anch'io li trascuro. Sono tuoi ospiti? Ospiti? Ne avevamo in questa casa quando era onorata e mio padre era qui. Ma come vedi, le cose sono molto cambiate. Nel vacuum totale, nel vuoto, nell'assenza, nella reticenza, nel timore di dire io rivendico la mia condizione di padre, che bisogna stare anche molto attenti, perché un padre può essere immediatamente associato come un potenziale femminicida, quindi bisogna stare molto attenti a pronunciare questa parola, però bisogna farlo, è il momento di farlo, anche perché ci sono alcuni segnali che io non tenderei a sottovalutare. Avete sentito un pezzo dell'Odissea nella sua edizione televisiva, di cui non rispondo naturalmente per la esattezza filologica, Telemaco finalmente incontra Ulisse, padre non ha mai conosciuto, da cui non ha mai sentito pronunciare il suo nome. Sotto falso nome, nascosto, mascherato, è il primo contatto da brivido fra Telemaco e il padre Ulisse. Telemaco tutta la sua vita guardava il mare e aspettava che arrivasse il padre. Il padre finalmente a fare giustizia in una situazione che voi ben conoscete, la casa invasa da principi proci, i suoi coetanei, che gozzovigliavano in attesa di poter impalmare la madre. Questo ragazzo senza padre guardava l'orizzonte, attendeva un padre e poi finalmente arriva sotto mentite spoglie. Beh, l'analisi, l'attualizzazione, la riflessione su questo antichissimo mito raccontato da Omero è stato uno dei libri che ha più venduto negli ultimi mesi. È il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, per l'edizione Feltrinelli, scritto da Massimo Recalcati. Massimo, buongiorno. Gianluca, un abbraccio. Io e Massimo Recalcati ormai siamo diventati una coppia fissa, perché tutti e due parliamo di paternità, ognuno a modo diverso. Ridiamo ancora, visto che per te ormai sarà una consuetudine piuttosto lograta, un senso ai nostri ascoltatori cosa significhi oggi rivedere con gli occhi di Telemaco la figura del padre. Beh, insomma, intanto bisogna dire una cosa di fondo, che il nostro tempo non è più il tempo del padre padrone, cioè del padre che ha l'ultima parola sul senso della vita e della morte, del bene e del male, giusto e dell'ingiusto. Quest'epoca è finita e secondo me non bisogna avere nostalgia alcuna, no, di questo tempo e di questa rappresentazione autoritaria, disciplinare, repressiva della paternità che il 68 ha contribuito a demolire. Noi viviamo in un tempo in cui appunto il padre che ritorna e che incontra Telemaco non è il grande eroe che ha sconfitto Troia, ma è un mendicante, appare come un padre mascherato, dunque come un padre, e questa è un'immagine della paternità oggi, come un padre vulnerabile, come un padre indebolito, come un padre senza carisma. E allora è però attraverso l'alleanza con quel che resta del padre, cioè con un padre che esiste solo attraverso i suoi atti, non attraverso, diciamo, l'autorità che la tradizione gli attribuisce. Non, no? È l'eroe che torna vincitore. Assolutamente, è un extracomunitario. Ecco, praticamente la stessa cosa. È la condizione in cui ci troviamo oggi noi padri. Non siamo più padri che abbiamo un'istituzione, una gloria sul campo di battaglia, una santificazione che ci dà il nostro ruolo. È un ruolo da conquistare giorno per giorno, con grande fatica e con grande necessità di calpestare anche il proprio orgoglio. Fermiamoci un attimo, Massimo, subito mi collego con la situazione che avevo accennato. Fabio Bernardini, buongiorno. Buongiorno Gianluca, come stai? Fabio Bernardini, mio compagno di cavalcata di una settimana, sentite il nitrire dei cavalli, gli zoccoli sul sottofondo, sta portando anche lui suo figlio avanti nell'ultima fase di questo importante cammino. È responsabile della comunicazione della Onlus L'Emozione in una Voce, che è un'associazione di genitori di ragazzi autistici che promuove l'autonomia e l'integrazione sociale per i loro figli. Stanchi di attendere risposte istituzionali, hanno preso i loro figli sulle spalle, come hanno fatto questi giorni, e si portano in giro. Sento la carrozza sul sottofondo, descrivi quello che sta accadendo in questo momento. In realtà abbiamo appena lasciato i ragazzi che hanno preso una strada bianca, noi siamo sulla strada asfaltata perché con le macchine di supporto non possiamo seguirli in mezzo al bosco ed è giusto così. Quindi i ragazzi sono a cavallo, sulla carrozza e stanno compiendo praticamente gli ultimi chilometri di questa bellissima avventura. Quanto manca l'arrivo? Credo un 4-5 ore. Quindi faccio in tempo, alle 11 finisco, 1:10 per raggiungervi in macchina, mi farò l'ultimo tratto insieme a voi. Aspettiamo a Santa Restituta, un piccolo paesino dell'Umbria vicino ad Avigliano Umbro, è un bellissimo paese e quindi noi lì passeremo. e ti aspettiamo in qualche modo, ma tu arriverai prima di noi perché i ragazzi comunque hanno i loro ritmi e non li stressiamo. Ecco, noi spieghiamo semplicemente come avviene la cavalcata degli 11, poi sono 11 ragazzi perché sì, se ne è aggiunto 11, uno. La mattina sì, sì. Ci si alza, 7 vanno a cavallo e gli altri 4 su una carrozza e si danno il turno. Esatto, si danno il turno, ogni cavallo che ha un ragazzo autistico accanto, o un camminatore o un altro cavaliere, ma comunque sono tutte persone esperte nella gestione del cavallo e della psicologia di questi ragazzi, quindi li conoscono da tempo e quindi tutto si svolge in massima sicurezza, perché noi abbiamo richiesto proprio il top dell'attrezzatura, tutti i ragazzi hanno corpetto e casco che ci è stato fornito da una ditta leader in Italia, che ringraziamo, che è Cap Italia, e si cammina, si chiacchiera, si gioca, si scherza. E si Fabio Bernardini, solo una cosa, tu hai parlato a nome dell'associazione, giusto, certo. E ringraziato giustamente l'unico sponsor che c'è stato, perché vigliacco se qualcuno ha provato a dare un aiuto, se la sono presa sulle spalle tutti i genitori questa cosa qui, e uno ha regalato i cappelletti, quindi è giusto che sia ringraziato, l'unico che ha fatto un gesto, perché degli autistici poco importa al mondo. Però ecco, come padre, tu adesso hai parlato di un'associazione, tu come anche io, vediamo i nostri figli abituati a essere non soltanto protetti ma doppiamente protetti, perché in quanto autistici hanno bisogno di una costante, continua attenzione, montare a cavallo e sparire dentro il bosco, perché non sempre li seguiamo fino in fondo. Tuo figlio in questo momento lo vedo, lo immagino, e a cavallo lo vedi salire, abbiamo passato di tutto, strade interrotte, pozzanghere, guadato fiumi, corrotto pastori che non ci volevano far passare, scavalcato montagne di strame perché i contadini buttano la cacca di mucca in mezzo alle strade di montagna perché i cacciatori abbiano confuso i cani, delle faide inimmaginabili. Qual è l'impressione di essere padre? Ma l'impressione è di riuscire a vedere finalmente tuo figlio che diventa un adulto, diventa autonomo per la prima volta. Io sono estremamente felice, No vabbè, succede, è chiaro, è un'emozione per tutti, anche per me. Felice di che lui sia da solo adesso nel bosco. Ma lo sai perché? Sapete perché Fabio si è commosso? Un uomo rude, è un ingegnere informatico, ma se ne sta lì con stivali coperto di merda di cavallo fino al collo e in mezzo al bosco. È commosso perché noi parliamo di figli molto particolari, di figli che hanno bisogno di noi anche per attraversare la strada. Non posso essere lasciati solo un istante. A capire e vedere che al di fuori di uno stress di civilizzazione possono fare quello che farebbe qualunque essere umano. Montare a cavallo, scendere a cavallo, sellare il cavallo, dar da mangiare al cavallo. Visto mio figlio steso in mezzo alla biada del cavallo che dormiva, col cavallo vicino che brucava. È un'emozione unica. Ci fermiamo un istante con te, Fabio. Continua la cavalcata. Via via avremo modo di avere il segno delle tappe successive, dell'emozione a una voce e degli 11 autistici a cavallo. Aurelio, buongiorno, ascoltatore, 800 24 0024. Cominciate a raccontare, padri in ascolto, cosa fate voi di alternativo. Noi portiamo i figli a cavallo, voi che fate? Aurelio. Io faccio le cose che alla fine porti in giro, in piscina, a scuola, cerchi di farlo un po' divertire, ok? Il fatto che poi anche non abbia la mamma così perché via, a volte cerchi un attimino di sdoppiarti un po', anche se alla fine sei sempre lì sull'incudine perché prendi sempre mille martellate dal bambino, dalla suocera, dalla nonna, e è un po' un casino. Quindi Aurelio, tu stai definendo la condizione che sottolineava Massimo Recalcati. Non siamo padri eroici, perché un padre eroico non dovrebbe avere fra le scatole la mamma, la nuora, la suocera, dovrebbe portare all'asilo, dovrebbe fare anche questo, dovrebbe fare anche altre cose col figlio. Cosa ti piacerebbe fare da padre con tuo figlio? Tu potendo scegliere, potendo segare a metà la suocera e mettere la moglie un attimo tranquilla, cosa faresti con tuo figlio? Ma andrebbe bene tranquillo, divertirsi insieme, essere più quasi un amico, andare a fare le sbarcate insieme, anche se aveva solo 7 anni, però divertirsi insieme come un amico, un compagno, non so. Grazie Aurelio. Massimo Recalcati, 800 24 0024, ditemi qualcosa di più rispetto il vostro progetto impossibile, utopico di essere padre. Recalcati dice, il nostro ascoltatore, il primo che ha chiamato, per lui il massimo, il top della paternità è riuscire a fare delle sbaraccate col figlio, divertirsi col figlio, essere amico. Ma è questo il recupero della condizione paterna? No, il mio parere, tu sai, è un po' diverso. Anche il mio. Però mi ha molto colpito quello che diceva l'ascoltatore precedente, che si è emozionato nel pensare suo figlio autistico a cavallo nel bosco, perché questo dice qualcosa della paternità più autentica, cioè dobbiamo mettere in luce due fondamentali operazioni della paternità. La prima, che è quella poi che accompagna la genitorialità come tale, è quella di dire ai propri figli, di rispondere alla domanda dei propri figli, sì, ci sono presente, rispondere al grido, rispondere alla domanda di soccorso, perché diventare padri significa necessariamente occuparsi di qualcuno che non è autosufficiente, no? Nessun bambino si genera da sé, nessun bambino è, come dire, autonomo, nessun bambino nasce indipendente, si nasce sempre gettati nella vita in una condizione di insufficienza. Pensa, dunque, io ti ho dato anche una metafora ancora più forte. I ragazzi che sanno cavallo sono ragazzi tutti adolescenti o addirittura grandi, 18 anni, 19 anni, e sono come bambini, resteranno tutta la vita non autosufficienti, quindi è ancora più forte questa, certo, scelta di provocazione, li porto a cavallo dove nessun padre potrebbe un figlio, perché credimi è una vitaccia, è al di fuori di tutto quello che noi consideriamo vita civilizzata. Certo, per questo mi ha colpito molto, perché se da un certo punto di vista, diciamo, l'insufficienza accompagna la vita di un figlio come tale, no? Nei suoi esordi, poi nell'autismo noi sappiamo che questa insufficienza permane tutta la vita, ma la seconda funzione della paternità è quella poi di accompagnare i figli al deserto, no? Di lasciarli andare, di lasciarli soli, di farli crescere, di farli diventare autonomi. Allora, quando quello che ha colpito fino all'emozione, fino al pianto, il padre di questo figlio autistico che ci ha parlato prima, è proprio nel vedere che un abbozzo di autonomia, un abbozzo di libertà si stava disegnando in questa impresa del figlio che è a cavallo nel bosco. Pensa, la libertà corrisponde con l'abbassamento delle, non, in questo caso dei limiti, ma in realtà delle agevolazioni della modernità. I figli diventano come gli altri figli quando intorno hanno soltanto bosco, cavallo da governare e strada da affrontare. In una situazione basica torniamo ad essere tutti uguali, cadono i limiti. Abbiamo al telefono Mogol, Giulio Rapetti. Maestro, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto ti sono grato per la mia parte paterna, perché oggi tra 4 ore arriverà anche mio figlio nella tua Accademia della Musica. Ma perché hai voluto mettere il tuo nome su questa fantastica impresa? Tu sei anche padre, tu hai figli, tu ami i cavalli. Qual è il senso per cui Mogol ha detto portatemi a me questi ragazzi a cavallo? Allora, prima di tutto io è da tanto tempo che seguo questi ragazzi e anche altri che hanno lo stesso tipo di patologia. Sono stato il padrino di Baobab, che è un'altra associazione di autistici, e sono stato vicino anche a questa associazione che ha intrapreso questo meraviglioso, stupendo viaggio a cavallo, che prova molte cose, perché innanzitutto prova che i cavalli hanno una particolare sensibilità per questi ragazzi, che prova che questi ragazzi si normalizzano nel momento in cui sono nella natura, perché uno dei problemi grandi, secondo me, ma forse anche non secondo me, è il disadattamento che hanno per un mondo che non fa parte del creato, si hanno difficoltà subito dopo 2 anni a entrare in un mondo, mentre capiscono gli animali, hanno un colloquio con tutta la natura, capiscono, si arrestano e si chiudono davanti a qualche cosa che non riconoscono, istintivamente. Senti, ma qual era invece il senso, visto che l'ispirazione l'hai data tu, della cavalcata che si è fatto con Lucio Battisti negli anni 70? Allora non c'erano figli di mezzo, eravate due scavezzacollo, dovevano dare un segno che loro andavano controcorrente. Avete fatto una Milano-Roma a cavallo quando tutti glorificavano le nuove autostrade, i treni, gli aerei. Qual era allora il senso? Allora, guarda, l'idea è venuta a me e ho proposto di accompagnarmi, e Lucio è stato talmente generoso, non sapeva neanche andare a cavallo, di imparare ad andare a cavallo e di seguirmi. Il vero motivo della passeggiata a cavallo era che cominciavo a fare delle passeggiate e avevo voglia di fare, poi ho fatto passeggiate di un giorno, di 2 giorni, e poi mi è venuto questa voglia di fare un viaggio, proprio un viaggio, e l'abbiamo fatto senza dire niente a nessuno, perché di questo viaggio poi sono rimaste solamente una fotografia di un giornalista che ci aspettava sugli Appennini, quando abbiamo attraversato gli Appennini e ci aspettava in un bivacco col fuoco sulla strada e ci ha offerto il caffè, me lo ricordo, e un altro che è Mario Tessuto, che a Marina di Massa aveva forse una delle prime macchinette di ripresa, e rimangono queste ci sono pochissime documentazioni, mentre pensa di questa cavalcata c'è la cronaca diretta giorno per giorno con foto e video nel sito della Stampa, che, a cui modestamente ho anche contribuito, quindi ci sarà una prova documentale. Giulio, io devo lasciarti perché devo dare la linea alle informazioni della Borsa, ci vedremo noi fra qualche ora, ti ringrazio per la parte mia, perché in fondo l'aver collaborato a ridare un senso all'essere padre, anche se per essere padre occorre oggi averci un cavallo e cominciare a cavalcare e a pensare in mezzo al bosco, ha avuto comunque un senso. Grazie Giulio Rapetti, Mogol. Ci fermiamo un istante, informazione alla Borsa. Melog, la realtà condivisa. Noah? Non sei tu quella che si preoccupa delle cose? Ah sì? Se Marge non si preoccupa dei bambini, allora chi se ne preoccuperà? Oh, io! Aiutami, maionese! Oh, che carino, Homer. Nostro figlio sta crescendo, non è vero? No, non si tratta di questo. Non hai sentito? Non ci sono più banane. Non ci sono più banane. Oh, Giacomo! 800240024. Oggi parliamo del difficile recupero della propria condizione di padre. Io amo i Simpson, amo i Griffith, amo American Dad, amo i telefilm in animazione che mostrano le figure più cialtrone di padri. Ci fanno ridere, ci fanno sorridere, ma passa intanto un messaggio subliminale molto deciso. Il padre è un cialtrone, il padre è una persona senza responsabilità, il padre è più stolto e più ingenuo dei propri figli, che molte volte sono più saggi dei padri. Questa è una condizione molto corrente, molto comune. Noi cerchiamo di capire se però è possibile trovare un percorso diverso, una strada difficile e tortuosa che ci permetta comunque di avere la serenità di essere padre. Perché per quanto difficile, per quanto complicato, per quanto gravoso ricordarsi un momento che si hanno dei figli che ti stanno a guardare, e insomma quello che tu farai vedere a loro segnerà profondamente la loro esistenza, dovrai essere tanto bravo per un certo punto anche di aiutarli a tagliare il cordone, perché il padre rimanga una figura di riferimento ma non un'ossessione. Io mi sono spaternizzato in età già adulta, ho deciso a un certo punto che non avevo più famiglia, perché era l'unica maniera per riacquistare la mia libertà di pensiero. 800240024, rispondo a Claudio che mi scrive su Twitter: se fossi il figlio di Nicoletti gli direi: papà, smettila con sta storia, lasciami in pace, non strumentalizzare e pensa a lavorare. Non sto lasciando in pace mio figlio e gli altri figli, sto segnalando un problema che tocca 400.000 famiglie in Italia, che si attraversa anche la mia esperienza, è una maniera che ho io per dare voce, dare visibilità a persone che altrimenti cavalcherebbero da sole dentro il bosco, nessuno lo saprebbe, se ne accorgerebbe pochissime persone. Loro ci hanno messo l'organizzazione, ci hanno messo la fatica, ci hanno messo l'idea, ci hanno messo il sacrificio. Io faccio il mio mestiere, faccio il giornalista, racconto questa cosa perché secondo me è degna di essere raccontata. Il fatto che io si è coinvolto non implica che non ne possa parlare e raccontare. Velocemente degli ascoltatori, Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io volevo raccontare che 9 papà di Rimini, veramente 8 papà e una mamma e 9 ragazzi con autismo, si sono arruolati come equipaggio effettivo di una nave militare che è Navitalia, che fa questo tipo di progetti. 30 aprile al 4 maggio, 5 giorni come membri effettivi dell'equipaggio. L'effetto è stato estremamente positivo, soprattutto perché la vera emozione è che lì l'autorità non è più il genitore, ma il comandante della nave. Poi e vedi, quindi... vedi, non sapevo di questa cosa, la prendo con piacere, ne do notizia con grande interesse. Però vedi che alla fine gira e gira, i percorsi sono gli stessi. Certo, noi ci rendiamo conto più degli altri della necessità di essere padre, perché abbiamo dei figli che hanno più bisogno di punti di riferimento, e ricostruiamo delle situazioni che possono sembrare arcaiche, passatiste, reazionare se volete agli occhi di chi vuole genitore 1, genitore 2, poi in realtà seguiamo dei percorsi che non danno alternative, è quello. Grazie Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Mi sente? Certo. Okay. Sento bene. Io vivo con mio figlio da 8 anni ed è stato lui a deciderlo. Io non sono sposato, però con la mamma di mio figlio ci siamo lasciati ormai 9 anni fa e una sera lui mi ha chiamato dicendo se poteva venire a vivere con me. Io sono sempre un po'... Pronto? Preoccupato. Sono sempre un po' preoccupato quando sento parlare di padri eroi. No, vabbè, ne parlano gli altri. Non ne parlano mai i padri in prima persona, perché non c'è niente di eroico nell'essere padre, è gioco forza. Non credo che facciamo gli eroi. Proviamo a fare al meglio un compito molto difficile, che è quello di essere genitore. Sì, io ti dirò di più, ti sorpasso addirittura in estremismo, ma alla fine ne avrei fatto anche a meno, stavo tanto bene da solo, però ormai che mi ci trovo, ci sto dentro, mi prendo la responsabilità. Grazie, Giuseppe. No, quindi, pronto? Giuseppe, sì. Sì, buongiorno Gianluca, a parte che premetto subito una cosa, avrei gran piacere di sentirti in privato e confrontarci un momentino su certe cose. Va bene. Volevo solo dire una cosa, io come genitore ho vissuto inizialmente con estrema drammaticità l'idea di poter diventare padre, perché venivo fuori da un'esperienza quarantennale con un'attività di insegnante, soprattutto con pluriminorati, quindi tutto questo mi aveva profondamente messo in crisi. Dopodiché ho deciso invece di fare il salto, proprio come dice Kierkegaard, di saltare il limite di qualsiasi incombenza di pensiero e accollarmi pienamente una responsabilità nella quale ho creduto fino in fondo, perché avevo stabilito dei punti di riferimento, chiamiamoli valori, chiamiamoli come ci pare, sui quali contare, e da quel momento mi sono sentito libero all'interno di questi paletti culturali, chiamiamoli così, che mi ero prefissato, che ho cercato di trasmetterli e con tutte poi le possibili critiche, i possibili errori, le possibili contingenze della vita che mi ha riservato ad oggi fino a 29 anni, tanti ne ha la mia prima figlia, e con le quali però mi confronto con piacere e anche con umiltà nei confronti proprio dei figli stessi. Di conseguenza non ritengo che certi ruoli debbano essere enfatizzati o sminuiti, in quanto se collocati nell'alveo di una regolarità anche esistenziale, di una vita condivisa pienamente con le persone che ti stanno accanto, in primis la moglie e i figli stessi man mano che crescono, senza mettere sul piatto una serie infinita di processi che non portano da nessuna parte. Sì, te lo dico molto chiaro, Giuseppe, chi ha tempo di riflettere, di pensare, di speculare, è bene che lo faccia. Sì, chi ogni giorno sì, deve affrontare un problema concreto e reale con una persona che ha bisogno di te, non può entrare in sottilezze di pensiero, deve solo agire, deve saper muovere le mani e muovere la testa velocemente. Allora, Massimo Recalcati, ricordo Complesso di Telemaco, Genitori figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, libro di grande successo che parla appunto di Telemaco che attende il padre. Però stai ascoltando, Massimo, che alla fine sono genitori con situazioni a limite che sono quelli che per primi riprendono la consapevolezza alla paternità. Bisogna passare attraverso una guerra persa, una guerra sconfitta, una guerra che comunque ci lascia sconfitti, perché alla fine privati di ogni genere di riconoscimento, di dignità, di gloria, di onore, di esistenza per essere padri. Sai, la parola che io ascolto spesso ripetersi oggi è quella di responsabilità. Ecco, io definisco la paternità come una responsabilità illimitata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una responsabilità senza diritto di proprietà sui propri figli. E questo che cosa significa? Che è difficilissimo. Sì, che però un buon padre è qualcuno che non ha progetti sui propri figli. E dunque, se, non avendo progetti, come dire, lascia che sia l'attitudine del proprio figlio a definire quello che sarà il suo destino, non quello che un genitore vorrebbe che sia. Ecco, questo mi pare il punto centrale. Questo, no? Accade nella tua esperienza poi anche professionale, o è da manuale? Che un padre investa in paternità, ma senza aspettare che poi sta costruendo il bastone della sua vecchiaia, come si diceva una volta. Sai, il dono più grande che un genitore può fare è non avere attese sui propri figli. È un dono difficile, però è il dono più grande. E non a caso, ti ripeto la domanda di prima, a parlare sono genitori che in realtà non solo non hanno attese nei confronti dei propri figli, ma hanno l'ansia e l'angoscia del fatto che i propri figli hanno bisogno di un padre anche oltre l'esistenza biologica del padre. Situazione molto singolare questa. Certo, assolutamente, quello che ti dicevo prima, no? Cioè noi siamo nello sviluppo normale, c'è un tempo in cui la paternità deve assicurare la presenza, poi questo tempo si sostituisce ad un secondo in cui la paternità deve arretrare, cioè un buon padre deve saper tramontare e lasciare al figlio, diciamo, la responsabilità del proprio destino, del proprio fallimento, della propria realizzazione. Nei casi che tu descrivi, nel tuo caso, questo arretramento, questo tramonto è impossibile e dunque si tratta di ripensare in modo nuovo un legame con un figlio che durerà tutta la vita. Ma non è il vero, il grande problema oggi della contemporaneità è proprio che i padri, anche se non hanno figli disabili, in realtà attribuiscono ai propri figli una disabilità a affrontare la vita, quindi il padre si sente intramontabile. Come farà mio figlio? Troverà lavoro? La società lo accetterà? Lo vedo pieno di problemi. I figli non crescono mai e i padri si illudono di essere intramontabili, ma anche per loro poi arriva il momento del fatale rincoglionimento, la fatale inattitudine a poter occuparsi dei figli. E questo è il problema. Beh, guarda, ma insomma, facciamo un esempio molto concreto, no? Quando un figlio adolescente finito il liceo deve decidere quale facoltà fare, allora, tenuto conto che decide quale facoltà fare all'università senza orizzonte, senza prospettive, questo è un altro grande problema del nostro tempo, no? Cioè i figli, noi siamo Telemaco, ma siamo dei telemaci, diciamo così, i nostri figli sono Telemaco senza un regno, non sono figli di re. Dunque si trovano davanti a sé un'assenza di orizzonte, un'assenza di prospettive. Tu hai visto i dati del crollo, per esempio, delle iscrizioni alle facoltà umanistiche. Ecco, se un figlio ti chiede: io voglio studiare lettere, voglio studiare lingue, voglio fare filosofia, cosa dovrebbe fare un genitore? Sto attraversando questo problema io in questo momento. Hai di fronte l'idea che ti terrorizza di un figlio disoccupato, ma che segua un suo percorso interiore, mentale, culturale, o dirgli: ma no, fai il fisico, fai il matematico, fai l'ingegnere, almeno lavorerai. Perché? Perché noi siamo degli Ulisse, sì che abbiamo sempre alle spalle una città bruciata e una guerra, ma davanti non abbiamo i proci da uccidere, non abbiamo un arco, non rifaremo mai giustizia, perché il mondo è pieno di proci, sono troppi per noi. Melog, la realtà condivisa. Certo, i punti di riferimento sono mutati, sono cambiati. Massimo Recalcati ci parla del padre Omero, ci parla di Ulisse Telemaco e noi abbiamo come riferimento emotivo Bart Simpson, Homer Simpson, i componenti della famiglia Griffith, che sono altri padri, altri figli, ma la nostra epica contemporanea è questa. I ragazzi, ma i genitori, gli adulti, il mondo è più intriso di Simpson che di Omero, è più intriso di telefilm che di filosofia, e quindi la scelta di essere padre, quindi guida, è quanto mai difficile. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una riflessione e sentire poi una risposta dal suo... È in farmacia? No, non sono in farmacia, io sono in macchina, mi sono fermato. Ah no, però ho sentito la mucchina spray, non so cos'era, va bene. Non c'è la mucchina, se poi comunque magari la comprerò se ho necessità. Sì. La mia domanda è questa qui però, noi siamo praticamente dei genitori che bene o male siamo autodidatti, facciamo un lavoro o una professione o comunque invece con amore, con tutto quello che è possibile pensare, per educare dei figli per i quali noi non sempre abbiamo la capacità o comunque ci prepariamo per essere genitori. Non c'è questa preparazione. Mi piaceva molto la riflessione del suo ospite, quando bisogna essere presenti e quando poi dopo bisogna smettere di essere presenti. Ma chi ce le ha insegnate? Nessuno. Noi siamo autodidatti e per certi aspetti mi viene da pensare che i più fortunati, i figli più fortunati nella loro, chiamiamola, sfortuna, sono proprio i figli problematici, perché loro almeno hanno dei genitori che proprio per risolvere il problema si sono preparati. Oddio, sono quelle fortune che se uno potesse scansarsele, certo, lo farebbe lo so, volentieri, però, dico la verità. No, però è vero. Mi correte, io l'ho premesso, sì, è ovvio sì. Che è una sfortuna. No. Però il genitore dei bambini... Dei ah, certo, ci hanno a tempo pieno. Si è preparato. Noi invece, che abbiamo avuto la fortuna di avere dei figli, chiamiamoli, mi passi l'espressione, normali, e noi non ci siamo preparati. Noi siamo prigionieri e carcerieri allo stesso tempo dei nostri figli. E lo saremo a vita. Lo so bene. Grazie, Giorgio. Giorgio ha parlato, Gianluigi. Buongiorno. Sì. Allora, niente, io telefonavo per raccontare l'esperienza che ho avuto quest'estate con mia figlia. È una bimba di 4 anni, non è niente di eccezionale quello che ho fatto, però mi sono abbastanza divertito a portarla in montagna, a piantare una tenda. È una bimba che di solito guarda parecchia televisione, a volte magari la vedo svogliata tra scendere e giocare, preferisce fermarsi in casa, però mi sono accorto che stimolandola, magari facendole vedere le cose che conosco, ho scoperto piacevolmente una bimba che ha voglia di camminare, che si diverte, che è attenta, e la cosa mi è piaciuta, nel senso costa magari un po' fatica, anche perché uno a volte deve superare un ostacolo che sono, è vero, quelle delle mogli. È chiaro Gianluigi, che anche lei ha scoperto che i figli si recuperano portandoli fuori da tutto un sistema integrato di supporto, fatto di accompagnamenti in palestra, in piscina, danza, kung fu, a lezione di lingue e via dicendo. Massimo Recalcati, autore del Complesso di Telemaco. Alla fine arriviamo a questa conclusione: per recuperare la figura paterna bisogna uscire dalla civiltà, bisogna tornare ai riti iniziatici tribali, portare il figlio nel bosco, nella foresta, a scannare le fiere assieme, qualcosa del genere. No, guarda, io penso più, mi colpiva l'ascoltatore che diceva siamo tutti autodidatti, no? Il padre della psicoanalisi, Freud, diceva che la paternità è un mestiere impossibile e che i migliori genitori sono quelli consapevoli di questa impossibilità, cioè consapevoli della loro insufficienza. Dunque i peggiori sono quelli che invece si credono educatori. Non c'è niente di peggio per un figlio di incontrare un padre educatore. E invece il meglio che possa accadere a un figlio è incontrare un padre insufficiente, un padre che appunto, per esempio, con la figlia pianta una tenda e realizza la paternità non attraverso una grande retorica educativa. La vera educazione non passa attraverso la retorica, non passa attraverso le prescrizioni, passa attraverso gli atti. Ma fermati un attimo, Recalcati, poi chiudiamo con te, voglio chiudere con te, Massimo. Mi ricollego con Fabio Bernardini, che per la Onlus, l'emozione è una voce, sta portando suo figlio in mezzo al bosco. A che punto sei, Massimo? Fabio, a che punto? Sì, ciao. No, li abbiamo raggiunti in un momento di sosta, per cui sentirete un po' di rumore, i cavalli che nitriscono e si stanno fermando proprio perché non vogliamo che loro diventino degli automi di nuovo e che debbano fare 20 chilometri nel più breve tempo possibile o 10 chilometri alla massima velocità possibile. Ecco, una cosa volevo chiederti, Fabio Bernardini. Si è molto parlato di questo aspetto della fuga dalla civilizzazione per recuperare la figura paterna. Io in questi giorni ti ho visto camminare, un giorno hai fatto 16 km a piedi sotto il sole, ma chi glielo fa fare a questo ingegnere che ha sempre avuto a che fare con macchine, computer e organizzazioni aziendali di andarsene sotto il sole e sudare? Chi te l'ha fatto fare? Ma me l'ha fatto fare l'idea che, come diceva Massimo Recalcati, è attraverso gli atti che si vive il mestiere di padre, si esercita il mestiere di padre, e credo che non ci sia miglior esempio per un figlio che vedere un padre non che ti dice cosa fare, ma fa quello che poi ti vorrebbe che tu facessi. Anche per i nostri figli dire cosa fare è ancora altrimenti più difficile. Ci sentiamo fra un'oretta circa, appena va la sigla, io monto in macchina e sono da voi. Saluto Fabio Bernardini, Massimo Recalcati. Il concetto del fare, ma è possibile fare quando non ci sono boschi, non ci sono cavalli, non ci sono montagne da attraversare? Fare nel quotidiano, in un'organizzazione ormai così ferrea, in cui ogni giorno ognuno ha la sua casella già predeterminata. Beh, io chiamo questo con la parola testimonianza, cioè la paternità è una testimonianza silenziosa. Come ti dicevo, non c'è niente di più insopportabile, e poi noi raccogliamo nei nostri studi di psicoanalisti cocci non c'è niente di più insopportabile del genitore che pontifica, che spiega qual è il senso della vita, che ha letto i manuali, che sa tutto. Sì, non c'è niente di più insopportabile e di più devastante per i figli che il genitore che ha sempre l'ultima parola su tutto. Ecco, al contrario, io penso che un buon padre oggi nel tempo della evaporazione del padre eroe, sia il padre che sappia ascoltare, che sappia dare la parola, più che dire l'ultima parola. Grazie Massimo Recalcati. Grazie. Evaporo te, anch'io e vado, ciao, a raggiungere i miei amici a cavallo. A lunedì.